hai un'idea di quanto fanno male le distanze? Hai un'idea di quanto ho camminato nella notte? Hai un'idea di tutte quelle note che ho cantato storte? Hai un'idea delle guerre in questo momento? Hai un'idea, un'opinione o cambi con il vento? Hai un'idea di quanto sono fragili le mura di cemento? Seguimi, mia lady. Se mi capirai, sarà difficile. Guardi, ma non vedi che non sono là nella tua normalità. Hai un'idea delle frasi che non dovevo dire? Hai un'idea di tutte le promesse che io ho infranto? Hai un'idea di quanto io ho sorriso e poi di quanto ho pianto? Hai un'idea di tutti i pensieri che c'ho in testa? Hai un'idea di tutte le poesie dimenticate? Hai un'idea lettere rilette e poi dimenticate? Hai un'idea.